Noi siamo Carlotta, Erika e Valeria per Fogeco Factory. Come vi abbiamo annunciato prima della pubblicità, siamo in collegamento con Dario Marengo, che è il chitarrista dei Not. Ciao Dario! Ciao a tutti, ciao. Allora, volevamo sapere come nasce il vostro gruppo e perché vi chiamate così? Allora, i Not nascono nel 2013, in realtà da due teste, sono quelle di Fabrizio e di Davide, quindi Fabrizio cantante e Davide batterista, e diciamo che tutto parte di lì, è una sorta di idee, di pezzi che vengono poi vengono portati in sala, vengono suonati, e taglio un po' corto, mettiamo un po' di tempo. E poi di per sé entra Giorgio, fa parte del progetto, bassista, e diciamo che sarà una figura importante per i Not, perché tutta la parte, diciamo che Giorgio è il professionista, no? Quello che ha un suo studio e si occupa poi tutta della parte di registrazione, mixaggio tutto del disco e di tutti i pezzi che vengono fuori, quindi figura importante. Dall'inizio c'è un chitarrista, si chiama Michele, col tempo viene pubblicato il primo album, dopo il primo album esce Michele, chitarrista, subentra Enrico, si va avanti con il secondo album, Sogni e Bisogni, e dopodiché sono entrato io come terzo chitarrista, mettiamola così. Diciamo c'è stato questo passaggio di testimone, mettiamola così, impegni vari dovuto a diverse situazioni. Ecco Dario, visto che hai citato i nomi degli album, cosa caratterizza l'ultimo album che appunto si intitola Sogni e Bisogni rispetto invece al primo album che si intitola Il Primo Passo? Esatto. Ma di per sé cambiamenti o evoluzioni, non so neanche io come chiamarle. Sicuramente un'evoluzione di idee, di pensieri, diciamo sempre. Le tematiche poi in realtà sono sempre quelle, devo dire, quello che riguardano un po' le persone della nostra generazione, dei trentenni. E tematiche diciamo sociali del rapporto, diciamo nel rapportarsi tra persone, sì, storie d'amore, non storie d'amore, e nel sociale, direi nel sociale, certo. E dal punto di vista musicale non so, parlare di evoluzioni, dire cambiamenti non so neanch'io cosa. Esperienza, mettiamola così, forse esperienza e pensieri diversi. Ok, forse. E musicalmente c'è qualche genere a cui vi ispirate? Musicalmente, diciamo ogni elemento dei Not ha un po' di influenze un po' diverse, ma anche dei trascorsi diversi, devo dire. C'è chi arriva magari più dal pop, chi ha studi un pochino più classici, chi suonava rock, grunge, metal. In realtà ci sono diverse cose che si mettono insieme. In realtà i Not si ispirano forse a un pop, oggi forse viene chiamato indie pop, no? Diciamo quello che forse si può sentire da Brunori, Nicolò Fabi, Masca Zè, diciamo un po' sono questi di riferimento. Mi metterei su quella fascia lì, non so più o meno. Poi sta un po' anche agli altri dirlo. Il vostro singolo invece si intitola, l'ultimo singolo uscito, La fine di un'estate. Di che cosa parla? Sì. Ah, vabbè, La fine di un'estate è un pezzo in realtà musicalmente fresco, allegro, che in realtà tratta una tematica abbastanza seria. In realtà La fine di un'estate è una metafora, è proprio un po' un passaggio. Quello che si voleva dire con questa canzone era proprio un passaggio un po' dall'età post-adolescenziale a quella un pochettino più adulta, no? Dove aumentano un po' le responsabilità, aumentano, ci sono dei fattori che poi influenzano poi quella che sono la vita di tutti i giorni, i nostri pensieri. Certo. E quindi si guarda un po' con malinconia al passato, no? E quindi questo è quello che si voleva dire con la fine di un'estate. Questo era il concetto. Avete qualche data in programma? Sì. Allora, beh, a parte che veniamo da un tour estivo abbastanza ricco di date, beh, devo dire, domani sera ci sarà una data, diciamo che non dico il nome, così almeno visto che sono vostri concorrenti, ci sarà una presentazione radio domani sera, e in più ci sarà una jam session dopo, dove parteciperemo e faremo qualche pezzo live. Invece date in programma ci sarà poi al 17 di novembre al Bistro Vicolo Divino di Torino, l'8 dicembre all'O'Connor Pub di Quaregna, Biella, il 13 dicembre al Vitriol di Fossano, e poi si va nell'anno nuovo, l'11 gennaio l'Angolo Verdinone, l'Artificio di Torino il 16 febbraio, e diciamo che poi qua metteremo poi altre date molto probabilmente, penso. Certo, ci saranno poi nuove date. Un tour abbastanza ricco. Allora, Dario, noi ti ringraziamo moltissimo e ci diamo magari un altro appuntamento sempre su Radio Città Fucico, sui 103.1, e in bocca al lupo per il tour. Adesso ci ascoltiamo l'ultimo singolo, La fine di un'estate. Ciao Dario. Ciao Dario. Grazie mille. Ciao, grazie.